cos'è che ti fa piangere e sognare? Pensi sempre a quell'amore che non c'è più, passa il tempo e tu non sai dimenticare. Chiedi invano ad ogni stella, ad ogni fior, tornerà, non tornerà quel grande amore della Margherita, che tra i fiori l'indovina, solo lei bambina la risposta ti darà. La Margherita, la Margherita, la Margherita, quando tornerà? Chi dice sì, chi dice no, la Margherita, ora un bel sì, ora un bel no, questa è la vita. Tu sognerai, piangerai, scorderai, sfoglia, sfoglia, sfoglia, sfoglia, e con ogni foglia quanti sogni passano così, come quella Margherita che tra le tue dita tu sfogliavi un dì. La Margherita, la Margherita, la Margherita, quando tornerà? Chi dice sì, chi dice no, la Margherita, ora un bel sì, ora un bel no, questa è la vita. Tu sognerai, piangerai, scorderai, foglia, foglia, foglia, foglia, e con ogni foglia quanti sogni passano così, come quella Margherita che tra le tue dita tu sfogliavi un dì. No, la Margherita, ora un bel sì, ora un bel no, questa è la vita. Tu sognerai, piangerai, scorderai, foglia, foglia, foglia, foglia, e con ogni foglia quanti sogni passano così, come quella Margherita che fra le tue dita tu sfogliavi un dì. La Margherita, la Margherita, la Margherita poi te lo dirà. La Margherita, la Margherita, la Margherita te lo dirà. Yeah.